nel culo, trito come un siluro, giù a 90 spalle al muro, e subisci per anni l'ignoranza di sti tre ragazzi. C'hai coglioni per chiamarci minchioni, ti masturbi con un dito e la lingua penzoloni, inclina a masturbare cartine, riempire boccettine con sostanze additive. Il tuo incubo è la tempesta, mentre si scopa tua madre come pausa merda. Sesso, alcol, figa e droga, ho la mente di off e il fisico di Raul Bova. Non ricordo che ho fatto la sera prima del fatto, perché ho solo due neuroni che quando voglio fan contatto. Gli occhi bianchi sono solo un ricordo, i miei polmoni non funzionano da tempo, e il mio fegato è gonfio come quello di Vasco. Precare condizioni, menti psicolabili, internati ad Amsterdam. Siamo l'ignoranza, stavamo per essere arrestati a Gardaland. Super Doc MC insieme a 12 prodotti da Dufang e la Justice con i suoi beat. Non ci credi? È l'ignoranza che avanza, comincia a tremare il soffitto della tua stanza. Super Doc MC insieme a 12 prodotti da Dufang e la Justice con i suoi beat. Non ci credi? È l'ignoranza che avanza, comincia a tremare il soffitto della tua stanza. Cosa? Ti vedo ancora seduto, se c'è chi resta confuso, sentendo un beat più grasso di brutto. Scorbutico, mentire a me stesso, comunico al pubblico questi messa smania di successo. Confesso, mi piace sentirvi gridare, dimenticare le pare, farmi le tipe più strane, gridare al mondo giocane. Mi cibo di cibo, stantio cazzo fa schifo, vomito rime elogiando gli unici MC per cui tipo Maurizio. Facevo il chierichetto perfetto, ampliavo ogni progetto più vario, Sesso e marijuana insieme a Piscia, nelle apolle di Don Mario. Contrario a barriere mentali letali, il mio film preferito, i vizi delle collegiali. ODT con un futuro senza stop, insieme a Super Doc, un cazzo in culo per le lollipop. Super Doc MC insieme a 12 prodotti da Dufang e lancia skills con i suoi beat. Non ci credi? È l'ignoranza che avanza, comincia a tremare il soffitto della tua stanza. Super Doc MC insieme a 12 prodotti da Dufang e lancia skills con i suoi beat. Non ci credi? È l'ignoranza che avanza, comincia a tremare il soffitto della tua stanza. Io con te si mette male, aia. È un rinoceronte che monta un chihuahua, devastazione del tuo retto come ad Okinawa. Tra i cani io sono quello che morde, tu quello che abbaia. No, non puoi chiamarci animale solo perché siamo rivali, pasta e fagioli come preliminari. Poi facciamo gara a dare fuoco ai nostri gas intestinali. È un mix tra giusto rap e contenuto alcolico, a meno che non vomito, tutto intorno diventa comico. Se è un contest di breakdance e dirty dance nel mio stomaco, puoi chiamarmi testardo bastardo, ma non bugiardo. L'ultimo che m'ha dato del codardo, gli ho messo un palo in culo e l'ho innalzato e sventolato come uno stendardo. Da brutte storie sono uscito senza se, disturbavo sempre sul più bello. E Bonnie, problemi con la Disney, Topolino mi segue con un'ascia da quando mi sono scopato mini. Super Doc MC insieme a 12 prodotti da Dufang che lancia skills con i suoi beat. Non ci credi? È l'ignoranza che avanza, comincia a tremare il soffitto della tua stanza. Super Doc MC insieme a 12 prodotti da Dufang che lancia skills con i suoi beat. Non ci credi? È l'ignoranza che avanza, comincia a tremare il soffitto della tua stanza. MC baby, ok, Zorba sul micro insieme a me, ovvero è l'ignoranza che avanza, ok, trema il soffitto baby, è così con i brutti Jeff Clan, con i brutti Jeff Clan, vogliamo morire, sì, è l'ignoranza che avanza, è l'ignoranza che avanza. Oh, coglione.